La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato a Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia. Alla sua storia è dedicato lo spettacolo È bello vivere liberi di Marta Cuscunà. Ospite ai nostri microfoni la storica Anna Di Giannantonio. Dall'inizio del 1942 una nuova connotazione della donna scaturì dalle nostre riunioni segrete. Si percepiva in quei pericolosi frangenti l'esigenza crescente di affermare la nostra presenza, il nostro pensiero, i nostri desideri, così lungamente e pesantemente schiacciati nella dittatura fascista, nella quale eravamo oggetto e mai soggetto. Queste parole sono tratte dal memoriale scritto nel 1989 da Ondina Peteani, la prima staffetta partigiana d'Italia scomparsa il 3 gennaio 2003 a 78 anni. Primo esempio di resistenza al femminile, operaia nei cantieri navali di Monfalcone, Ondina entra diciottenne nel movimento di liberazione e nel 1943 si unisce ai battaglioni partigiani del Carso con la brigata proletaria, facendo loro da staffetta. Arrestata due volte, riesce a fuggire ma viene nuovamente catturata l'11 febbraio del 1944 a Vermegliano. E segregata nel comando delle SS di Piazza Oberdan a Trieste, da dove viene poi trasferita al carcere del Coroneo e quindi deportata ad Auschwitz nel marzo successivo. Le viene tatuato il numero 81672. La figura di questa coraggiosa giovane staffetta partigiana è stata al centro dello spettacolo teatrale, già rappresentato in vari teatri italiani, dal titolo È bello vivere liberi, in scena al Teatro Quarticciolo di Roma il 2 e 3 marzo scorsi. L'ideazione, la regia e l'interpretazione è di Marta Cuscunà nell'ambito delle iniziative che i teatri di cintura dedicano al tema della donna in occasione della ricorrenza dell'8 marzo. Allo spettacolo è stato attribuito il premio scenario per Ustica 2009. Attenti! Saluto la luce! Paghimi la luce! Chi è stato? Saluto il re! Paghimi un caffè! Vieni qui! Ondina Peteani, nata sotto il fascismo, il 26 aprile 1925 a Trieste. Abita a Vermegliano, frazione di Ronchi dei Legionari. Da Auschwitz Ondina è trasferita al campo di Ravensbrück e poi assegnata ai lavori forzati in una fabbrica di Eberswalde presso Berlino. Il 2 aprile del 1945, nel corso di una marcia di trasferimento, riesce a fuggire e a tornare a Trieste, dove giunge a luglio alla vigilia della fine della guerra. Ondina è stata avvicinata per la prima volta nel 1942. Aveva appena 17 anni. E la scena dell'avvicinamento è questa. Dunque, in queste riunioni, noi, che siamo donne controcorrente, dobbiamo imparare ad arrangiarci in tutti i modi per poter affermare, ma concretamente, la nostra possibilità di fare di tutto, proprio come gli uomini. Comunismo è essere donne emancipate. E ora, che la battaglia per i diritti delle donne diventi parte integrante della lotta per costruire una società più giusta. E quindi tutti, uomini, ma anche noi donne, dobbiamo combattere per riscattarci da quello che subiamo sotto il fascismo. Lo spettacolo trae spunto dalla biografia di Ondina Peteani, scritta nel 2008 dalla storica Anna Di Giannantonio per l'Istituto Regionale di Storia del Movimento di Liberazione del Friuli Venezia Giulia. Il titolo è bello vivere liberi, una vita tra lotta partigiana, deportazione e impegno sociale. È bello vivere liberi è l'ultima frase che Ondina ha scritto in ospedale poco prima di morire. Buonasera, professoressa Di Giannantonio. Buonasera. Ci parli della figura di questa straordinaria signora che dedicò questa parte importante della sua giovinezza e della sua vita per contribuire alla liberazione del nostro paese. Intanto vorrei iniziare raccontando un po' come è nato questo libro. Alla morte della madre venne in istituto il figlio di Undina, Gianni Peteani, il quale disperato mi chiese se potevo ricostruire appunto la storia di sua madre. La cosa che mi colpì fu un accenno che mi fece Gianni, cioè che la madre era morta, scrivendo appunto questa frase, poco dopo aver scritto questa frase, ma che ecco, al momento della morte pesava circa 40 kg, che era esattamente lo stesso peso che aveva quando fu liberata dal campo di Auschwitz. Undina era alta, è una donna di 1,70 m, quindi veramente magrissima. E quindi questo mi fece venire in mente il fatto che in qualche modo un cerchio si era chiuso. Era tornata con il pensiero fisso ed era squassata proprio dai fantasmi di Auschwitz. Una storia che adesso appunto si può conoscere attraverso questo spettacolo teatrale che peraltro è già stato rappresentato in numerosi teatri italiani con grande successo, c'è da dire. C'è anche questa storia bella. Io ho scritto questo libro e poi Marta, questa giovanissima attrice teatrale, ne ha preso spunto. Questo è un modo bello per far capire come le storie e i periodi storici anche si possono trasmettere di generazione in generazione. Naturalmente lei ha rielaborato il racconto in modo assolutamente personale e c'è stata quindi questa trasmissione di memorie e di sapere tra generazioni, che è anche molto, molto importante. Undina inizia a fare la partigiana, che è giovanissima, sui 14-15 anni. Così giovane perché la resistenza al confine orientale è stata particolarmente precoce, perché noi abbiamo qui avuto una fortissima presenza di sloveni, i quali già dal tempo del fascismo si organizzano perché sono oggetto di una oppressione molto dura, che parte proprio dall'impedimento di parlare la loro lingua, la chiusura delle scuole, la sottrazione dei campi che avevano e delle attività commerciali. Certo, quello che fu definito il fascismo di confine. Esatto, proprio una persecuzione in quanto sloveni, non in quanto politicizzati. Ecco, quindi diciamo che l'antifascismo si forma a Gorizia e a Monfalcone e anche a Trieste molto precocemente, e Undina partecipa prima al Soccorso Rosso, che era un'organizzazione antifascista che aiutava i carcerati, quelli denunciati dal Tribunale Speciale, e poi quasi automaticamente diventa staffetta partigiana. Per questo è stata riconosciuta come prima staffetta partigiana, proprio perché qui la resistenza inizia prima. Si può dire a partire dal 41, sì, quando l'Italia invade la Jugoslavia, in pratica annette Lubiana, la provincia di Lubiana, smembrandola. Lei fa la staffetta e incorre in tutta una serie di pericoli e di rischi che lei ha perfettamente presenti, quindi è una scelta meditata la sua, ed è una scelta drammatica. Nel 43 arrivano i tedeschi e annettono la nostra zona al Reich, il gioco si fa molto pesante. Noi qui abbiamo l'unico lager di sterminio, sì, in Italia, che è la Risiera di San Sabba, sì, quindi la repressione è veramente molto dura, con arresti, uccisioni, impiccagioni. Quindi l'impegno delle donne è stato particolarmente importante, ecco, perché loro avrebbero potuto non scegliere, avrebbero potuto defilarsi, invece partecipano in prima persona a questa lotta. E questo è una cosa, diciamo, un aspetto importante, le chiedo, sì, in conclusione, professoressa, sì, anche perché appunto si sta per celebrare l'8 marzo, la partecipazione delle donne, che forse, sì, non è molto conosciuta al movimento di liberazione del nostro paese, trova in Undina una rappresentazione di grandissimo livello. Il ruolo che hanno avuto le donne durante la resistenza è stato fondamentale, perché la resistenza appunto è stata una lotta fatta da persone che non indossavano una divisa, una sorta di guerriglia, potremmo chiamarla con termini moderni, e quindi se non ci fossero stati aiuti in pianura, viveri, rifornimenti ai partigiani in montagna,